Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:06 minuti, benvenuti, nuovo appuntamento con Focus Economia. Di che cosa parleremo quest'oggi? Sicuramente vi parleremo della fiducia sul decreto legge crisi passato alla Camera, sono possibili modifiche, questo è quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, modifiche possibili al Senato, staremo poi a vedere. Poi parleremo anche dei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti. Si sono aperti ieri colloqui molto importanti tra queste due superpotenze. Obama ha detto che le relazioni tra Stati Uniti e Cina saranno le più importanti per la ricostruzione del XXI secolo. E ancora parleremo di Alitalia, torneremo a parlare di Alitalia dopo che per questo lungo inverno se ne è parlato moltissimo, poi abbiamo lasciato lì il capitolo, adesso lo riapriamo perché ci sono state delle tensioni ieri a Napoli per quanto riguarda la T-Tech, la società di manutenzione. I dipendenti non hanno percepito lo stipendio, la cassa integrazione a luglio, e questo ha scatenato appunto tensioni, è stato bloccato l'aeroporto per alcune ore, blocchi stradali. Ci sono però delle tensioni anche all'interno, sembrerebbe che ci siano queste tensioni anche all'interno della stessa compagine della CAI, cercheremo di fare un po' il punto. E poi aggiornamenti su tutta la vicenda Risanamento S.p.A. Come avete sentito nel corso del nostro giornale radio, sono arrivate da pochissimo le dimissioni di Luigi Zunino, erano attese già ieri sera, però Zunino non ha voluto dimettersi dal consiglio di amministrazione, lo ha fatto oggi intorno alle 16 al suo posto, hanno battuto le agenzie da pochissimo, verrà cooptato lunedì prossimo Luigi Rot, che è presidente di Terna e presidente della Fondazione Fiera Milano. Staremo a vedere che cosa succederà adesso, vi ricordiamo che domani è attesa la pronuncia del Tribunale di Milano sul fallimento. E poi, come al solito, ampia pagina dedicata ovviamente ai mercati. Che cosa sta succedendo in questo momento? Dobbiamo dire intanto che questa mattina l'apertura dei listini europei era stata sì debole ma comunque positiva, quindi con il segno più. Poi che cosa è successo? È successo che Deutsche Bank ha aumentato la propria stima sulle perdite per l'anno in corso, questo ovviamente ha portato giù tutti i bancari. Wall Street ha aperto con il segno negativo, quindi con il meno, e allora in questo momento succede che Parigi cede l'1,13%, Francoforte l'1,21%, Londra cede l'1,10%, a Milano il FTSE Italia All Share cede l'1,65%, così come il FTSE MIB. Negli Stati Uniti, a Wall Street, che succede? Il Dow Jones cede uno 0,62%, il Nasdaq è in flessione dello 0,45%, lo Standard & Poor's cede uno 0,83%. Lieve debolezza nel cambio per quanto riguarda euro su dollaro, 1,41,68 è il cambio in questo istante. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso le nostre notizie in breve. Petrolio, come sempre nei primi scambi a New York, il greggio ha ceduto uno 0,6% a $67,98 al barile. Continuiamo a parlare di petrolio perché la British Petroleum, che è la seconda più grande compagnia petrolifera europea, ha registrato nel secondo trimestre un calo del 53% dei profitti a seguito del ribasso dei prezzi dell'energia e della riduzione della domanda di carburanti. L'utile netto della compagnia è sceso così a $4,39 miliardi dai 9,36 milioni dell'anno scorso. Gli scenari derivanti dall'impatto della crisi economica prevedono una riduzione dei consumi e di conseguenza una riduzione delle emissioni di CO2. Questo è quanto emerge dal rapporto Energia e Ambiente 2008 realizzato dall'ENEA, presentato questa mattina a Roma. Secondo le stime preliminari, infatti, spiega ENEA, a causa della crisi 2008-2009 si è verificata una riduzione delle emissioni di CO2 del 6% per ciascun anno. Andiamo negli Stati Uniti, i prezzi delle case continuano a scendere, l'indice S&P Case Shiller a maggio ha registrato un ribasso del 17,06% su anno. Il dato è migliore delle stime degli analisti che si attendevano una contrazione vicina al 18%. Il colosso nipponico dell'auto Toyota ha annunciato oggi che le vendite globali nel primo semestre del 2009 hanno accusato un calo del 26% rispetto allo stesso periodo del 2008, riuscendo tuttavia a mantenere la leadership sull'americana General Motors. Nel periodo gennaio-giugno 2009, fa sapere la casa automobilistica in una nota, sono state vendute nel mondo complessivamente 3.564.000 vetture Toyota contro le 3.552.000 e rotti di General Motors. Veniamo in Italia. Cresce a luglio la fiducia dei consumatori con l'indice che sale a 107,5 da 105,4 di giugno, portandosi sui livelli più elevati dal novembre 2007. Questo è quanto rende noto l'ISAE, l'Istituto di Studi e Analisi Economica. E lo dicevamo in apertura del programma, vi aggiorniamo, vi parliamo della fiducia con cui appunto la Camera ha approvato il decreto anticrisi. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il testo è stato approvato con 285 voti a favore, 250 contrari. In aula c'era il governo quasi al completo con il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ricordiamo che fanno parte del decreto le norme sullo scudo fiscale, sulle agevolazioni per gli utili reinvestiti, gli aumenti di capitale delle piccole e medie imprese, sul progressivo innalzamento dell'età del pensionamento delle dipendenti pubbliche, sulla regolarizzazione di colf e badanti. E come dicevamo, il Presidente del Consiglio ha detto che sì, saranno possibili modifiche al Senato. Questo lo ha detto lasciando la Camera, rispondendo a chi gli chiedeva se ritenesse che il decreto anticrisi appena approvato appunto fosse passibile di ulteriori modifiche all'esame poi di Palazzo Madama. Per quanto riguarda il piano per il Sud, ci stiamo lavorando, ha detto il presidente del Consiglio Berlusconi, sempre parlando con i giornalisti, proprio a chi gli chiedeva se ci fossero novità sul piano di rilancio per il Mezzogiorno. Ovviamente sono molte le dichiarazioni che si sono susseguite sull'approvazione del decreto anticrisi. Meglio le pillole per una cura graduale e moderata ad un sistema economico che è vitale e attraversa una fase momentanea di difficoltà dovuta a fattori esterni, che i colpi di sciabola come quelli che ha fatto Visco. Questo è quanto ha dichiarato nell'aula della Camera Fabrizio Cicchitto del Popolo della Libertà proprio nella dichiarazione di voto sul decreto anticrisi. Sentiamolo. Meglio le pillole che questo governo sta dando a un sistema economico insieme vitale e in difficoltà per un'infezione proveniente dall'esterno, che non l'intervento traumatico messo in atto nemmeno a colpi di bisturi, ma usando la sciabola come avvenne con la finanziaria del 2007. Bravo. Con quelle sciabolate avete ottenuto il doppio risultato di infliggere ferite gravissime all'economia italiana e di provocare danni irreversibili allo stesso governo, che infatti è deceduto dopo un anno. Voteremo questo decreto con la consapevolezza di aver dato una mano alle nostre imprese e alla nostra gente. Questo è quanto detto nell'aula della Camera il capogruppo della Lega Roberto Cota in dichiarazione di voto finale proprio sul decreto legge anticrisi. Sentiamolo. Si è parlato tanto di scudo fiscale. A parte che questo tipo di misura è stata introdotta anche in quasi tutti gli altri paesi europei. Però noi ci facciamo una domanda semplice: è meglio fare uscire i capitali come è stato fatto in passato o farli rientrare? Io penso che oggi sia meglio farli rientrare, perché quei capitali possono e debbono servire per fare nuovi capannoni, per acquistare nuovi macchinari, e cioè devono servire per produrre lavoro. Molto critica ovviamente l'opposizione, interpellato da Vincenzo Miglietta, il responsabile economico del Partito Democratico, per Luigi Bersani, giudica insufficienti e inadeguate le misure messe in campo dal governo contro la crisi. Ci sono delle cose impotabili, a cominciare dal tema del condono, e poi ci sono cose che non sono sufficienti assolutamente ad affrontare il problema che abbiamo di fronte. Cioè, qui c'è un punto di fondo, cioè l'Italia, quando è messa di fronte a un problema, lo supera. Se viene messa di fronte continuamente a un'edulcorazione, a una narrazione rassicurante, senza che poi si vedano dei fatti seri, può crescere la sfiducia. Questo è il punto di fondo, e credo che a settembre ci accorgeremo che questo problema c'è. Immancabile anche il commento di Antonio Di Pietro, critico, molto critico verso il provvedimento, il leader dell'Italia dei Valori. Le ragioni della nostra contrarietà sono molteplici, ma tutte unite dallo stesso filo logico. La nostra avversione al suo modo di governare, signor Presidente del Consiglio, fatto di furbizie, scorciatoie, doppi pesi e doppie misure, inconsistenza di contenuti, vendita di fumo, gioco delle tre carte, con gli stessi fondi a disposizione. Fondi che una volta vengono messi in un capitolo e un'altra in un capitolo diverso, solo per far credere che ci si occupa di tutto e invece non risolvete mai nulla. Denunciamo noi dell'Italia dei Valori innanzitutto quello che manca nella manovra. Il sostegno ai più deboli e alle aree sottosviluppate. Torniamo a parlare di sanità. Ieri abbiamo dedicato un'ampia pagina a questo problema. Sulla sanità e scontro tra la Regione Veneto e il Ministro delle Finanze, con il Presidente Giancarlo Galan che ha annunciato una causa a Giulio Tremonti per danno di immagine con diffusione di notizie fasulle, per aver dichiarato che la sanità della Regione avrebbe un deficit di oltre 200 milioni di euro. Galan, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato che il reparto sociosanitario del Veneto registra invece un attivo di circa 16 milioni di euro. I famosi derivati: sono state chiuse le indagini nell'inchiesta riguardante i prodotti derivati sottoscritti dal Comune di Milano. Nell'inchiesta sono coinvolte 14 persone, tra manager di istituti di credito e l'ex direttore generale del Comune di Milano, Giorgio Porta. L'ipotesi di reato è quella di truffa aggravata e, stando alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dal procuratore aggiunto Robledo, l'ammontare dell'illecito sarebbe di 100 milioni di euro. Gli istituti di credito coinvolti sono Deutsche Bank, DEFA Bank, JP Morgan e UBS. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Sisal, lo avete sentito anche nel nostro GR, per presunto abuso di posizione dominante. La società, spiega il garante per la concorrenza, impedirebbe ai concorrenti di collegarsi alla rete telematica per svolgere le attività di raccolta online dei giochi numerici e totalizzatore nazionale Super Enalotto e Superstar. E a proposito di Super Enalotto, questa sera per il concorso numero 90 dell'anno, ovviamente in corso 2019, ci saranno in palio per il jackpot del 6 ben 107 milioni di euro, la somma più alta di sempre e al momento il montepremi più alto del mondo. Poste Italiane chiude il primo semestre 2009 con un miglioramento del risultato operativo e dei ricavi totali, che raggiungono quota 9,4 miliardi di euro con una crescita dell'11,4%. Lo comunica la società in una nota in cui sottolinea come a dare slancio ai ricavi siano stati in particolare i servizi assicurativi, con una raccolta premi che cresce di oltre 18 punti percentuali, e servizi finanziari che mostrano una crescita superiore all'8%. I servizi postali registrano invece una riduzione del 5%. E adesso invece veniamo a quello che è il primo dei nostri temi di approfondimento: i rapporti tra Cina e Stati Uniti. Ne parliamo perché ieri a Washington ha preso il via il summit politico ed economico tra i due paesi. L'incontro, il meeting, arriva in un momento piuttosto delicato nei rapporti economici tra i due, perché da una parte pesa il profondo deficit degli Stati Uniti e dall'altra la Cina, come sappiamo, è il maggior detentore al mondo dei buoni del tesoro statunitensi. Il presidente Obama ieri ha aperto i colloqui di Washington, insistendo in particolare sul ruolo e sui rapporti tra i due paesi, protagonisti assoluti, ha detto Obama, del XXI secolo. Sentiamolo. This is an essential step in advancing a positive, constructive. Stiamo compiendo un passo fondamentale per favorire una relazione positiva e costruttiva tra i nostri due paesi. E nel lanciare questo dialogo è importante riflettere sulle questioni che modellano il XXI secolo. Lasciamo che la crescita venga azzoppata dalla crisi finanziaria o scegliamo di cooperare per arrivare ad una crescita equilibrata e sostenibile, togliendo più persone dalla povertà, creando maggiore ricchezza. Noi sappiamo che il rapporto tra Cina e Stati Uniti darà forma al XXI secolo. Guardando al futuro, possiamo trarre lezione dal passato. Stati Uniti e Cina condividono interessi comuni e se li affrontiamo cooperando, la nostra gente e il mondo intero ne beneficeranno. Costruire una relazione solida tra i nostri paesi servirà a rispondere con efficacia alle sfide globali. Innanzitutto, possiamo cooperare per arrivare ad una ripresa economica duratura. L'attuale crisi, infatti, ha chiarito che le scelte che facciamo all'interno dei nostri confini si riflettono sull'economia globale. E questo è vero non solo per New York o Seattle, ma anche per Shanghai e Shenzhen. Per questo dobbiamo continuare a impegnarci per un forte coordinamento bilaterale e multilaterale. Un esempio a questo proposito è stata l'azione aggressiva per riavviare la crescita, evitare una recessione ancora peggiore e difendere i posti di lavoro. Possiamo rendere più profonda la nostra cooperazione promuovendo la stabilità finanziaria attraverso una maggiore trasparenza e la riforma dei regolamenti. Dobbiamo puntare a un commercio libero e giusto e concludere l'accordo di Doha. Possiamo aggiornare le grandi istituzioni, così che la Cina possa avere un ruolo maggiore che si accompagna con una maggiore responsabilità. E con gli americani che risparmiano di più e i cinesi che possono spendere di più, possiamo dare fondamenta più solide alla crescita. Come la Cina ha beneficiato di grandi investimenti ed esportazioni, la Cina può essere un enorme mercato per i prodotti americani. China can also be an enormous market for American goods. Questo appunto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel suo intervento di ieri a Washington, proprio a proposito delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, paesi legati a doppio filo in un rapporto non privo di squilibri. Per parlare di questo ci colleghiamo con Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Fabrizio. Buon pomeriggio, grazie a tutti. Allora Fabrizio, sono cominciati questi colloqui ieri, il discorso di Barack Obama, un discorso che è partito dal rilancio della crescita economica per evitare una recessione ancora peggiore, poi ancora la difesa del clima, il contrasto alla proliferazione nucleare, la lotta al terrorismo. Obama ha fatto un discorso a 360 gradi, facendo un po' intendere che sia Stati Uniti che Cina sono un po' sulla stessa barca. Sì, sono sulla stessa barca, lo sono in un certo senso da tempo, ma lo sono ancora di più adesso, perché prima lo erano, perché c'era quella specie di scambio che alcuni chiamavano perverso fra un'America che spendeva troppo e una Cina che era contenta di mandare le sue merci in America e usare i dollari che venivano dagli Stati Uniti per investirli in buoni del tesoro americani, quindi era una specie di complicità nello squilibrio macroeconomico che a quel momento non faceva male a nessuno. Adesso che la crisi è scoppiata e gli Stati Uniti devono tirare i remi in barca, ecco, la Cina ora rischiava di non poter più continuare su quel modello di sviluppo e adesso questa loro complicità ha assunto un'altra fattezza. È importante perché la Cina si pone in questo momento come una specie di salvatrice dell'economia mondiale, cioè un paese che ha continuato a crescere al peggio rallentando dal 10% all'8% di crescita annual, che è un risultato sempre strabiliante, e è riuscita a passare il testimone della crescita alla domanda interna, è riuscita a non avere problemi di crisi finanziaria. In Cina, come si sa, la situazione è molto diversa da quella nostra, lì basta una telefonata dei poteri costituiti, quindi del partito unico, alle banche dicendo di continuare a prestare, e le banche quindi si possono sottrarre a quei remi in barca della diffidenza e della paura, che hanno portato invece altre banche del mondo occidentale a rallentare il ritmo dei prestiti e in alcuni casi a invertirlo. Senti Fabrizio, però sicuramente gli Stati Uniti hanno dovuto in qualche modo trattenersi negli ultimi mesi, consumare di meno, perché appunto l'eccesso di consumi a debito non ha retto. Questo sta comportando per la Cina un problema, nel senso che sappiamo tutti che la Cina ha delle riserve in dollari superiori ai 2.000 miliardi, detiene oltre 800 miliardi di dollari di debito statunitense e ha il terrore, se abbiamo capito bene, che il dollaro possa deprezzarsi. Sì, questo è in questo momento il punto più contenzioso fra gli Stati Uniti e la Cina. D'altronde questo specie di equilibrio, c'è un equilibrio del terrore valutario, nel senso che alla Cina non conviene dire agli Stati Uniti mettere in ordine i propri conti, perché il tracollo del dollaro che potrebbe seguire da una perdita di fiducia da parte della Cina farebbe male in primo luogo alla Cina stessa, perché farebbe perdere il valore alle proprie riserve. Io su questo punto sono piuttosto ottimista perché vedo che gli Stati Uniti usciranno prima degli altri dalla crisi, e quindi questo differenziale di crescita, che è una delle componenti più importanti nella solidità della valuta, favorirà il dollaro. È vero che i bilanci pubblici sono nel profondo rosso in America, ma lo sono anche in altri paesi, quindi non c'è un differenziale di vizio delle finanze pubbliche che potrebbe portare a una fuga dal dollaro. E quindi penso che purché il processo sia graduale, ci sarà un allentamento di quegli squilibri che hanno visto un grande deficit con l'estero americano e un grande surplus cinese. Già il deficit con l'estero americano questo trimestre si rivelerà probabilmente solo la metà di quello che era 12 mesi fa, e quindi penso che questo allentamento degli squilibri, la velocità con cui si sta riducendo la dipendenza degli Stati Uniti dall'estero, in prospettiva non prefigura una crisi del dollaro, ma piuttosto il suo mantenimento sui livelli all'incirca simili a quelli di adesso. Senti Fabrizio, ieri Obama diceva che le relazioni tra Stati Uniti e Cina saranno le più importanti per la costruzione del XXI secolo. Tu pensi che questo modello Cina-America sia a lungo sostenibile, anche se poi dovessero essere attenuati degli squilibri, o sia la Cina che l'America dovrebbero imparare ad essere più indipendenti l'una dall'altra? Beh, diciamo che già adesso la Cina e l'America, o per meglio dire l'America prima e la Cina poi, sono le due economie più grosse del mondo, e quindi è naturale che molti pensano a una specie di G2, una specie di direttorio dell'economia mondiale fra i due paesi che hanno più muscoli e più stazza economica. Questo è senz'altro vero, e in una certa misura diciamo è anche auspicabile che la Cina venga responsabilizzata nel supporto a un sistema economico mondiale che è sempre più globalizzato. Ci sono stati anche dei suggerimenti da parte cinese su un ridimensionamento del ruolo del dollaro come moneta internazionale, che penso che avverrà, perché è nei fatti, abbiamo avuto una crescente quota dell'economia mondiale coperta dai paesi emergenti e quindi è naturale che anche in campo valutario si rifletta questa ricomposizione degli equilibri economici del mondo. Credo però appunto che tutti questi processi dovrebbero essere graduali e quindi che questa nuova situazione di G2 di fatto, se non di diritto, possa consolidarsi nei fatti senza grossi strappi rispetto a un resto del mondo che continuerà a crescere anche lui, perché la Cina poi è tallonata anche dall'India e da altri paesi emergenti, e abbiamo una Europa che è sempre un'incognita e considerata un paese fra virgolette grosso ma debole e diviso. Proprio questo volevo chiederti, Fabrizio, se ritieni che l'Europa riuscirà ad avere un ruolo tra queste due grandi potenze o verremo sempre lasciati ai margini? Beh, diciamo che è sempre stato di moda in questi ultimi anni dipingere il gigante europeo come un gigante con i piedi di argilla. Io credo che l'Europa abbia ancora grosse carte da giocare, e anche se in questa crisi c'è stata una risposta in ordine sparso, che d'altronde era iscritta nei fatti, perché è chiaro che nei momenti di crisi ognuno pensa a salvare la propria pelle, non è il momento più utile per un salto nel processo di integrazione, però allo stesso tempo questa crisi ha fatto offrire gli occhi sulla necessità di andare più avanti una volta che la Buriana sarà passata sulla via dell'integrazione, quindi anche qui non tutto il male viene per nuocere. Penso che quell'esempio che ha dato l'Europa di costruzione di un'area non solo economica ma anche valutaria comune sia un esempio grosso, unico nella storia, che potrà essere seguito anche da altri gruppi di paesi sia in Asia che nei paesi del Golfo, e che quindi da questo punto di vista l'Europa continua a essere un laboratorio istituzionale con delle grosse indicazioni per il resto del mondo. Grazie a Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. A lui buon proseguimento di giornata. Grazie. Le 17:36 minuti, e adesso è venuto il momento di andare a vedere che cosa è successo e succede sui mercati. Una giornata piuttosto pesante per i listini europei, tutti segni meno, e in questo momento appesantisce anche Wall Street. Il Dow Jones cede poco più di un punto percentuale, il Nasdaq lo 0,97%, lo Standard & Poor's l'1,25%. Saluto Paolo Paronetto, collega di Radiocor. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, lo dicevamo in apertura di programma, stamattina seppur debole comunque l'Europa aveva aperto con il segno più, poi è successo qualcosa? Sì, poi come dicevi tu, questa mattina dopo un avvio positivo i listini sono gradualmente passati in territorio negativo e hanno chiuso poi sui minimi della giornata. A pesare è stata anche la flessione che sta registrando Wall Street, e dove il mercato è stato orientato al ribasso dal dato negativo sulla fiducia dei consumatori di luglio, un indicatore che è sceso oltre le attese, quindi questo ovviamente è tornato ad alimentare un po' di pessimismo sul mercato e ne hanno risentito tutti i listini che, ricordiamo, escono da una serie molto positiva, hanno registrato 10 sedute positive nelle ultime 12, e quindi ovviamente gli investitori sono passati ai realizzi spingendo i listini alla ribasso. E allora diciamo che Parigi si avvia appunto a chiudere con una flessione dell'1,23%, Francoforte meno 1,46%, Londra meno 1,26%, a Milano il FTSE Italia All Share meno 1,61%, il FTSE MIB meno 1,64%. L'Italia e Milano ha fatto un po' peggio rispetto agli altri. Qui Paolo, immagino pesi molto la flessione dei bancari. Sì, esattamente, il listino milanese come sempre è molto sensibile all'andamento dei titoli bancari che pesano molto sull'intero indice. Oggi i bancari sono andati piuttosto male in tutta Europa, a livello di sottoindice di settore il calo è stato dell'1,66% e a pesare è lo scivolone di Deutsche Bank che a Francoforte ha perso circa l'11% dopo la pubblicazione dei conti del secondo trimestre che in realtà non sono stati particolarmente negativi, ma ciò che ha colpito in negativo è stato l'aumento degli accantonamenti per i rischi su crediti che sono saliti a 1 miliardo e quindi fanno prevedere possibili nuove perdite nei prossimi trimestri in seguito al peggioramento, all'andamento negativo dell'economia globale. E infatti il peggior titolo a Milano è stato Unicredit, ha ceduto il 4,66%, però giù anche il Banco Popolare, meno 3,39%, la Popolare di Milano ha ceduto l'1,97% e poi via via risalendo il listino. Oggi però tra i titoli che hanno ceduto terreno, Paolo, c'è anche Eni con una flessione del 2,27%. Esattamente, Eni ha perso oltre il 2%, in questo caso a pesare è una flessione del prezzo del petrolio che è in questo momento per quanto riguarda il WTI è sceso sotto quota $67 al barile, quindi ritracciando rispetto ai livelli toccati nelle ultime sedute, e c'è da dire che sulla flessione di Eni ha influito inoltre i conti resi noti dalla compagnia britannica British Petroleum che ha annunciato un dimezzamento dell'utile netto nel secondo trimestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 e BP a Londra ha perso terreno il titolo British Petroleum e ha pesato sull'intero comparto petrolifero europeo che a livello settoriale ha perso oltre il 2,4% e le vendite ovviamente si sono allungate anche su Milano dove Eni ha ceduto il 2,27% e Saipem l'1,13%. Paolo, parliamo di Terna che dopo i conti ha chiuso in perfetta parità, zero. Esattamente. come variazione, zero. Terna che era dopo una mattinata in lieve calo ha azzerato le perdite, era arrivata anche a guadagnare circa lo 0,7%, poi ritracciando sul finale e dopo la pubblicazione dei conti del semestre. Terna ha chiuso il periodo con un utile netto in rialzo, in lieve rialzo oltre 200 milioni e sono in miglioramento sia i ricavi che il margine operativo lordo, conti quindi sommati in linea con le tese e positivi che hanno permesso al titolo di annullare le perdite e di chiudere invariato a €2,445. Oggi una giornata di dati, di conti, bene Geox appunto proprio dopo i dati, il miglior titolo è stato sul listino con un rialzo del 2,8%. Geox ha chiuso a oltre €5,3, anche qui il titolo ha migliorato dopo i conti semestrali che hanno evidenziato una lieve flessione, una flessione dell'utile a 64 milioni dai 78 del primo semestre 2008 a fronte di ricavi in crescita del 4%. Il presidente di Geox, Mario Moretti Polegato, ha accolto i risultati con soddisfazione e annunciando inoltre che in base a questi risultati Geox conta di chiudere l'intero 2008 con vendite in linea con quelle del 2009, una stima che è piaciuta al mercato, segno che i ricavi di Geox terranno nonostante le prevedibili flessioni dei consumi e quindi gli investitori hanno premiato il titolo che è stato il migliore tra le blue chip di Piazza Affari. Parliamo di Safil, di Luxottica, poi passeremo anche a Safilo, in attesa dei conti è stato il secondo miglior titolo, più 1,5%. Esattamente, Luxottica in questo caso deve ancora dare i conti che sono attesi a minuti, comunque in attesa dei risultati il titolo ha guadagnato terreno, l'1,5% e tutto un po' il comparto del lusso con l'eccezione della Piazza Affari di Bulgari è stato però ben intonato in tutta Europa dopo i conti diffusi nella tarda serata di ieri dal gruppo francese LVMH. LVMH che a Parigi dopo una seduta tutta in rialzo sulla fine ha ritracciato chiudendo in lieve calo con un meno 0,2%. Allora, prima così in un momento ho sbagliato il nome, volevo parlare di Luxottica, poi ho detto Safilo, perché ci veniamo adesso, veniamo su Safilo, sul listino completo meno 8,45%, quelli di Safilo sono dei giorni molto travagliati. Esattamente, restando nell'ambito dell'occhialeria, passiamo a Safilo che oggi ha perso terreno dopo l'annuncio arrivato ieri a mercato chiuso che il CDA della società ha preso atto dell'interruzione delle trattative con i fondi di private equity che erano in lizza per un ingresso nel capitale della società dopo che tutti i fondi non hanno presentato alcuna offerta e quindi si sono ritirati dalla procedura. Negli ultimi giorni si era verificato il ritiro di Pi Partners e quindi erano rimaste è rimasto in corsa per una partnership con Safilo soltanto Bain Capital, ma con il comunicato di ieri ovviamente è stato annunciato il ritiro anche di Bain Capital e quindi nessun altro fondo è rimasto in gara. Il CDA di Safilo ha quindi deciso di aggiornare i lavori al 4 agosto per poter valutare la situazione finanziaria confermando l'obiettivo di raggiungere un soddisfacente equilibrio patrimoniale e finanziario. Il mercato si interroga ovviamente su come questo adesso potrà essere raggiunto e quindi oggi i titoli sono stati venduti a piene mani dagli investitori. Un altro titolo che sta vivendo giorni di passione, così come ovviamente la società a cui fa riferimento, è Risanamento, oggi letteralmente volato. Sì, oggi è stato il migliore dell'intero listino, ha chiuso con oltre più 41% a 0,37 euro. Ovviamente il titolo ha beneficiato dell'annuncio del via libera del CDA al piano di salvataggio e di ristrutturazione presentato dalle banche creditrici e che domani sarà sottoposto anche al Tribunale di Milano e ha ulteriormente accelerato il passo sul finale dopo la notizia della dimissione dell'ex numero uno Luigi Zunino dal consiglio di amministrazione. Zunino aveva già fatto un passo indietro dalla carica di presidente della società ma era rimasto in consiglio, invece poche ore fa è uscita la notizia delle sue dimissioni dal consiglio e il titolo ha accelerato perché ovviamente legge questa notizia come una possibile rendere più facile il processo di ristrutturazione proposto certo dalle banche e quindi anche l'udienza in tribunale. Sì, sicuramente come un segno di totale discontinuità con il passato. Paolo, ti giro un'osservazione di un ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666, il quale ovviamente osservava, come tu giustamente hai detto in apertura di collegamento, che dopo una serie positiva è arrivato anche un giorno di stop, ma che comunque, anche se nessuno l'ha chiamato così, un rally estivo c'è stato ed è arrivato e che il rimbalzo non è finito. Che cosa si dice nelle sale operative? Sì, sicuramente il rally c'è sicuramente stato, proprio un rally estivo con in totale 10 sedute, 9 consecutive, in totale 10 sedute di rialzo e nelle sale operative ancora non ci si azzarda a fare pronostici, ma alcuni comunque sostengono che questa può essere una buona base per un recupero abbastanza strutturale, anche se visto come sono andati i listini negli ultimi mesi ovviamente c'è ancora chi aspetta prima di poter fare previsioni sull'andamento generale fino alla fine dell'anno. Il rally comunque c'è stato, è stato anche sostanzioso e quindi anche normale che a fronte di dati magari non incoraggianti ci possano essere sedute come questa di realizzi. Grazie a Paolo Paronetto, a lui buon lavoro e buona serata. Chi ci chiede come è andato il titolo Fiat, possiamo dire che oggi è chiuso con una lieve flessione, meno 0,59%. Le 17:47 minuti, abbiamo finito il nostro collegamento con Paolo Paronetto parlando di Risanamento e quindi veniamo al punto ormai giornaliero con la collega del Sole 24 Ore Laura Galvani, che saluto, buon pomeriggio Laura. Buonasera a voi. Ben ritrovata. Allora, ci sono delle novità anche delle ultime ore, perché fino a ieri insomma Zunino era rimasto, vogliamo dirlo, anche un po' attaccato alla sua sedia nel consiglio di amministrazione. Oggi poi nel primo pomeriggio sono arrivate queste dimissioni. Sì, era rimasto, come hai detto giustamente tu, attaccato alla poltrona in una maniera un po' curiosa, nel senso che sembrava che fossero quasi imprescindibili le sue dimissioni per poter dare via al piano di ristrutturazione e oggi poi a mente fresca evidentemente ha ragionato, ha rassegnato le sue dimissioni a far data dal prossimo 3 agosto quando si riunirà nuovamente il consiglio d'amministrazione di Risanamento. Ecco, che cosa potrebbe, perché abbiamo letto le ultime agenzie, lunedì potrebbe essere cooptato Luigi Rott, che è appunto il presidente di Terna, presidente anche della Fondazione Fiera Milano, che potrebbe assumere da subito la carica di amministratore delegato? Sì, in realtà Luigi Rotta già ieri aveva fatto una visita nel corso del Consiglio di Amministrazione di Risanamento, probabilmente perché fin da ieri sera in teoria sarebbe dovuta entrare nel board della società. Poi il fatto che Zunino non abbia rassegnato le dimissioni ha rallentato per un attimo il processo di riassetto di vertice. A questo punto ci si attende che lunedì prossimo, nel corso del Consiglio di Amministrazione, Rotta venga cooptato e gli vengano conferite le deleghe per poter prendere in mano sostanzialmente la guida della società, in modo da completare il vertice dopo la nomina del nuovo presidente, l'avvocato milanese Vincenzo Mariconda. Sì, infatti ricordiamo che è una nomina che è avvenuta ieri appunto durante il consiglio di amministrazione. Laura, le dimissioni di Zunino possono in qualche modo favorire tutto questo processo di difficile, anche possiamo dirlo, ristrutturazione, e quindi magari ecco far sì che il tribunale veda con un occhio più favorevole tutto questo processo? Beh, secondo le voci che sono circolate negli ultimi giorni, di sicuro il tribunale auspicava le dimissioni di Zunino, non solo dalla carica di presidente e di amministratore delegato, ma anche proprio dal board. Per cui è possibile che in qualche maniera questa decisione di Zunino venga vista con favore dal tribunale. Domani però vedremo cosa può succedere, nel senso che la difesa probabilmente chiederà un rinvio a settembre dell'udienza di fallimento. Sì. A questo punto è pensabile o auspicabile che il tribunale gliela conceda per dare modo alle banche proprio di ristudiare più nel dettaglio il processo di ristrutturazione e di mettere a punto gli ultimi termini dell'accordo. Se così non dovesse essere, se invece dovesse decidere di affrontare subito il tema, poi si dovrà vedere sostanzialmente qual è la decisione, se il fallimento oppure riconosca i contenuti del piano e conceda alla società di provare a imboccare questa strada del salvataggio. Laura, io ti do già appuntamento a domani, se ovviamente avremo già la decisione del tribunale, comunque sia nei prossimi giorni ci risentiremo per capire quali saranno gli sviluppi su tutto ciò che c'è intorno alla ristrutturazione di Risanamento, fallimento, ristrutturazione, quel che sarà. Grazie a Laura Galvani. Grazie a voi, buonasera. E a questo punto noi veniamo a quello che è l'ultimo tema di approfondimento di oggi. È stato un tema che è praticamente stato affrontato in Focus Economia per quasi tutto l'autunno-inverno, perché Alitalia ha tenuto banco per molti e molti giorni, poi lo abbiamo lasciato un po' da parte, ma intanto qualcosa ha continuato a muoversi e a succedere. Partiamo dalla cronaca, anzi partiamo subito dalla presentazione dell'ospite con cui ne parliamo, Gianni Dragoni, il collega del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera. Allora Gianni, con te volevo prima partire appunto dal dato di cronaca e poi venire a tutte quelle che sono le indiscrezioni, le voci che stanno continuando a ronzare intorno ad Alitalia, la CAI, possibili screzi tra l'amministratore delegato di Intesa San Paolo e l'amministratore delegato della nuova Alitalia, di CAI, quindi tra Passera e Sabelli. Prima però parliamo di Atitec, la divisione di manutenzione con sede a Napoli, che impiega circa 700 dipendenti. I dipendenti sono scesi in piazza ieri, forse sono a rischio gli stipendi di luglio. Che cosa doveva esserne, che cosa non è stato di Atitec? Atitec, società di manutenzione che lavora esclusivamente per la manutenzione degli aerei dell'Alitalia, non è stata inglobata nella nuova compagnia CAI, è rimasta nella liquidazione. Era previsto però era possibile che fosse comprata da una cordata, si è fatta avanti una cordata di imprenditori napoletani guidata dal presidente dell'Unione Industriale di Napoli, della quale però dovrebbero o avrebbero dovuto, perché al momento ancora non è successo, far parte anche la stessa CAI con una quota di minoranza e con una quota più piccola un altro gruppo pubblico, la Finmeccanica. Perché? Perché in questo modo la Atitec avrebbe avuto la garanzia di poter continuare almeno per alcuni anni il lavoro di manutenzione, essendo l'unico cliente. Certamente chi doveva comprare o poteva comprare aveva cercato le migliori condizioni per sé, i sindacati hanno cercato di difendere al massimo l'occupazione e comunque nessuno, diciamo, ha spinto in modo tale da arrivare a una soluzione, per cui il lavoro, l'Atitec di fatto non ha cassa, non ha liquidità perché è rimasta nella vecchia liquidazione all'Italia del commissario Fantozzi, quindi questa soluzione a cui si è lavorato è ancora possibile, però non è andata in porto, quindi la società ora è in crisi e è in difficoltà anche nel pagare gli stipendi. Gianni, verrebbe quasi da dire che in questo momento forse la CAI ha già troppi guai di per sé per occuparsi anche di Atitec, perché circolano indiscrezioni di stampa secondo cui a fine anno ci sarebbe un possibile buco di bilancio di 500 milioni di euro. Il buco di bilancio è certamente elevato e non sono in grado di confermare le cifre, perché probabilmente sono delle ipotesi, sì. Però già sappiamo per certo che nonostante il tentativo dei vertici della compagnia, poi è stato messo quasi in vetrina anche il presidente di Air France Spinetta quando qualche mese fa è venuto a Palazzo Chigi a fare un mega spot per la CAI per dire che le cose andavano benissimo. In realtà il piano industriale e il budget della CAI è stato costruito quando il petrolio era altissimo, più di 100 euro al barile. Il petrolio oggi costa in media meno della metà, sì. Per cui in realtà costi per alcune centinaia di milioni di euro non ci sono, e quindi quel margine possibile di miglioramento è stato invece mangiato dalle perdite di gestione dovute al fatto che gli aerei hanno meno passeggeri di quello che la società pensava, ci sono forti ritardi, ci sono inefficienze nel servizio, quindi in realtà la società sta andando molto male. Il budget a un certo punto verificato in corso d'anno prevedeva una perdita tra i 250 e i 300 milioni di euro, probabilmente c'è chi sta proiettando questa perdita la raddoppia, ma anche se fossero 300 anziché 500 sarebbe comunque un risultato deludente, ed è deludente soprattutto il servizio, è scadente, ci sono molti ritardi, è stato pianificato male il network, la flotta, il fabbisogno, sì, di aeroplani, di personale, questo è il problema direi di fondo. Ecco, ma proprio perché ci sono tutti questi problemi che sono anche abbastanza evidenti perché sono sotto gli occhi di tutti, i ritardi, le inefficienze, i pochi passeggeri, qualcuno ha detto che la poltrona di Rocco Sabelli sarebbe una poltrona traballante, anche perché appunto tra lui e Corrado Passera non scorrerebbe più proprio buon sangue. Quando le cose vanno male si cerca sempre uno responsabile. È possibile, anzi, che la poltrona dell'amministratore delegato dell'Italia traballi, non sarebbe una novità rispetto all'era dell'Italia pubblica quando mi pare in una decina d'anni, in una dozzina d'anni ci sono stati 8 amministratori delegati, sì. Alcuni durati anche solo, qualcuno durato solo pochi mesi, ma un unico caso. Quindi certamente se Corrado Passera o Banca Intesa San Paolo decidesse di sigurare Rocco Sabelli, bisognerebbe che spiegasse anche come mai è stata lei che poi ha fatto da pivot dell'operazione, raccogliendo gli imprenditori, finanziandoli anche, a sceglierlo, perché Rocco Sabelli è stato scelto da Banca Intesa San Paolo. Certo. Senti Gianni, l'ultima domanda. Proprio nel mese di agosto la CAI dovrebbe pagare questa prima rata da circa 138 milioni per gli asset della vecchia Alitalia. Si dice che anche su questo non ci sia accordo tra i soci, che qualcuno si vorrebbe sfilare. Intanto non c'è accordo, mi pare, tra la CAI e il commissario dell'Alitalia Fantozzi. Che già mi sembra sì, certo. Un altro aspetto di cui un altro aspetto curioso, perché evidentemente dimostra che il contratto di compravendita nel quale la CAI è stata già, diciamo, agevolata dal fatto di essere stata l'unica ammessa dal governo a comprare tutti gli asset dell'Alitalia, è un contratto intanto poco trasparente, perché non è stato reso noto bene il meccanismo del prezzo, ma da quanto è emerso la CAI in questa prima rata di prezzo, la CAI finora ha versato di cassa solo 100 milioni di euro, mentre ne ha versati quasi 300 per comprare il One, che è molto più piccolo, per cui già questo è vero, si è accollata dei debiti, ma i debiti poi sono della società, si pagano negli anni, i debiti si possono rinegoziare, quindi un euro di debito potrebbe costare in realtà di meno, mentre un euro di cassa che esce è un euro. Certo. La CAI può scegliere, avrebbe la facoltà di scegliere se anziché pagare in cassa accollarsi dell'indebitamento, e sembra che, almeno sembrava che fosse questa la strada a cui erano orientati i vertici della CAI, però nel meccanismo dare e avere, siccome c'è stato un periodo in cui la CAI ha assunto le operazioni della nuova Alitalia solo dal 13 gennaio di quest'anno, ma il contratto era stato chiuso un mese prima, sì. Anche qui un meccanismo piuttosto complicato, un mezzo pasticcio, sì, ci sono dei giorni. Allora ci sono i costi del periodo intermedio che erano stimati un forfè, però penso che la CAI, se quei costi sono inferiori, la CAI cerchi di dire che deve pagare di meno, quindi certo. Intanto c'è questo problema. Sì. Tra i soci io credo che in generale si possa dire che è nel sistema italiano, ma in generale una società con 20 soci, la CAI in realtà ne ha 21 italiani più uno straniero, Air France, è difficile che riescano sempre ad andare d'accordo. Tutti d'accordo. A meno che la società non vada benissimo, e siccome questo non avviene. E non è questo il caso, purtroppo. Purtroppo sì, diciamo noi perché. È normale che ci siano delle certo, perché i costi ricadono anche su di noi. Grazie a Gianni Dragoni nel Sole 24 Ore per essere stato con noi. Il tempo a nostra disposizione è terminato. L'appuntamento è rinnovato per domani.